Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ecco, il ferro crudo è più forte dell'acciaio. Questo che sentite è una semplice espansione dei muscoli pettorali, ossia del petto. Io spezzerò una registrazione qualche anno fa del fidanzato della Chiara Albicocco che spezzava le catene. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominciamo. C'è la crisi economica e Mebius vi aiuta a trovare lavoro. Corso rapido di mangiatori di fuoco e fakirismo. Se potessi avere un'eclissi al mese, ma perché non è possibile? In Tasmania c'è un diavolo che sta molto male. Vi raccontiamo la sua vita difficile. Connettoma, ovvero la mappa delle connessioni cerebrali. Ma forse non riusciremo mai a leggerla fino in fondo. Però voi avete rotto non per via delle catene, ma perché lui mangiava il fuoco. Sì, non perché fosse particolarmente forte, ma perché appunto mangiava il fuoco, aveva un alito tremendo. Tremendo, altro che baci calorosi. Sì, quindi ci siamo lasciati. Perché parliamo di ciò, di questo tuo passato, non tanto per metterlo al centro della trasmissione, ma perché... Perché vogliamo raccontare agli ascoltatori, lo abbiamo anticipato forse anche settimana scorsa, della scienza del fakirismo. Vabbè, ma perché... All'interno del fakirismo ci sta tutto, Tutto. Tutto, mangiatori di fuoco. Sputatori di fuoco, mangiatori di spade, mangiatori di vetro e ovviamente noi però qui abbiamo dovuto portare uno scienziato, no? Lo sappiamo. Quindi abbiamo un chimico dell'Università di Pavia, diamo il benvenuto, buonasera Luigi Garlaschelli. Buonasera. Lei è un po' il testatore delle tecniche di fakirismo del CICAP. Lascerei a lei la parola intanto forse per introdurci quali sono le tecniche che comprendono in generale il fakirismo e poi le vediamo una per una. Ricordiamo solo che il CICAP è questa struttura che controlla l'associazione per il controllo dei fenomeni paranormali cercando di far capire che ci sono in giro un sacco di bufale. Abbiamo voluto capirci un po' di più e abbiamo studiato un po' di queste tecniche, io le ho anche provate e sono diventato un po' fakiro anch'io, tra l'altro con l'aiuto proprio di un indiano che si chiamava Basava Premanand, che girava l'India per smascherare i falsi santoni. Abbiamo scritto io e Massimo Polidoro, che è il segretario del CICAP, un piccolo libro che si chiama I segreti dei fakiri. È un fakiro indiano che vive in Italia e ci ha querelati. No! Quindi unico caso, credo. Perché? Perché avete svelato, avete raccontato diciamo le tecniche, i trucchi. Ma non si sa, perché dice che il contesto era dileggiatorio e non scientifico. Mentre è vero il contrario. Oi boh, infatti. Ecco, comunque per quanto riguarda le tecniche, i fakiri naturalmente le cose che fanno, che si dice che fanno, o sono leggende che nessuno ha mai visto, come il trucco della corda indiana che si solleva nell'aria. Scusi Garlaschelli, trucco cosiddetto della corda è una leggenda, nel senso che non è che hanno inventato un sistema. È una leggenda, quindi non è mai stato visto se non sotto forma di trucchi grossolane, diciamo. Invece le altre discipline hanno tutta una loro tecnica. Le discipline, se non sono trucchi da illusionista banali, sono cose che apparentemente la fisiologia umana non sembra permettere, invece è possibile fare. Ci faccia qualche esempio. Io sono un mite chimico, come mi definisco spesso, ho imparato a sdraiarmi su un letto di chiodi, a mangiare il fuoco, a mangiare il vetro, a fermare il battito del cuore. No, aspetti. A buttarmi con spilloni, a farmi rompere un mazzo da 30 kg sullo stomaco con una mazza di ferro. Quindi... Aspetti Garlaschelli, andiamo con ordine, scusi. Lei quando va a dormire si sdraia su un letto di chiodi, generalmente? No, è un materasso un po' duro, ma il letto di chiodi è il più banale dei trucchi dei fakiri, anche se è quello più famoso. Sostanzialmente è un problema di fisica, cioè se i chiodi sono abbastanza numerosi, quindi abbastanza vicini, il peso del corpo poggia su un numero tale di chiodi, per cui su ogni chiodo non grava più di circa mezzo chilo di peso e quindi ci si può sdraiare tranquillamente. Posso ricordare, Galla Scherli, che al museo, nuovo museo di scienza di Trento, c'è, visitatori possono sdraiarsi su e provarlo direttamente. Il punto critico è quando uno si sdraia su un vero letto di chiodo. Sì, certo, se quando sbaglia, appoggia il sederino, certo, all'inizio. Ecco. Esatto. Ecco. Sì. Poi andiamo avanti. Mangiafuoco. Io voglio sapere come si fa. Ecco, mangiafuoco o sputafuoco? Sputa fuoco. Due differenze fondamentali. Sì, sono completamente diverse. Tant'è vero che una volta ho insegnato a mangiare il fuoco a uno che faceva lo sputafuoco e quello aveva una paura tremenda. Ah, sono due professioni. Lo sputafuoco non ho ancora imparato a farlo. Comunque consiste semplicemente in tenere in bocca un liquido infiammabile e poi riuscire a fare uno sbuffo molto forte in modo da polverizzare il più possibile questo liquido che va a finire su una fiamma che c'è davanti alla bocca e fa queste fiammate da drago. Ecco, ma lì, Galla Scherli, io ho visto anche molti film, ho visto anche degli sputafuoco, non il fidanzato della Chiara, ma ho visto degli sputafuoco. Quello che però è abbastanza impressionante è che la fiamma è molto vicino alla bocca. Allora uno dice, ma non c'è possibilità che gli rientri dentro? Sostanzialmente no, non è proprio vicino alla bocca. La fiamma si produce solo da quando lo sbuffo di liquido infiammabile incontra, certo, la torcia, che quindi è a qualche... Beh, insomma, bisogna stare attenti, ecco, sì. 20 centimetri dalla bocca. Ho visto alcuni abili però, insomma, che è piuttosto vicino. Però lui dice, se uno impara a fare la polverizzazione, lì il segreto. E poi bisogna stare attenti a non inghiottire comunque il petrolio, la sostanza, certo, combustibile. Certo, anche che, quello. No, perché io ho parlato con il mio ex fidanzato e la cosa difficile, insomma, era un po' questa. Poi dopo io chiedevo come facesse a non ingoiare, insomma, c'è tutta una tecnica, bisogna stare molto attenti. E poi si ripulisce la cavità orale con il latte. Le risulta, Galla Scherli? Io non l'ho mai fatto quando mangio il fuoco, infatti ho sempre poi una bocca... certo, lasciato per quello. Dal sentore disgustoso. No, volevo aggiungere come curiosità che adesso gli sputafuochi a volte non usano più il cherosene o quant'altro, ma usano la farina in polvere. Perché la farina, quando viene finemente polverizzata nell'aria sopra una fiamma, si incendia benissimo. La farina 00? Sì, la farina. L'unico problema è che poi la bocca con la saliva si impasta tutta di farina e l'effetto è ancora più schifoso. Ma e quindi anche le massaie potrebbero, no? In cucina ogni tanto buttare fuori del fuoco. Bello, in famiglia è bello. Un'altra roba. Invece mangiare il fuoco, ecco, questo è abbastanza semplice, si fanno delle piccole torce con una bacchettina di legno e un batuffolo di cotone, viene una parte grande come una mandorla, poco più diciamo di cotone, si beve di cherosene, non di alcol, e poi si infila in bocca e si chiude la bocca e non succede niente. E anche lì bisogna conoscere un po' una tecnica, nel senso che ovviamente non bisogna inspirare l'aria mentre si fa questo gesto, e la bocca va tenuta serrata, leggermente sollevata verso l'alto, e poi con decisione si infila la torcia in bocca e si chiude, e la torcia ovviamente, non avendo più ossigeno a disposizione, si spegne praticamente subito. Quindi il trucco è togliere l'ossigeno, ma non si sente assolutamente niente, è come se fosse spenta, diciamo. Allora, cioè, non proprio... provateci se non sapete bene la tecnica, questo diciamolo a tutti a casa, chi ci stia provando. Ecco, Galla Scherli, rimanga lì, anche voi che siete in auto non provateci, perché adesso sentiamo le informazioni del traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo in crisi, bisogna risparmiare, mangiare vetro potrebbe essere la soluzione. Ecco. No. Allora, siamo con Luigi Galla Scherli, chimico dell'Università di Pavia, nonché prestato al fachirismo per il CICAP. Ecco, stiamo snocciolando un po' tutte quelle che sono le tecniche dei fachiri e io ho la curiosità, veramente. Del mangiavetro? Sì, come fanno a ingoiare i pezzi di vetro tritato? Scusi, Galla Scherli, lei lo so che lo fa. Tra l'altro, proprio in questi giorni ha tenuto una conferenza a Torino al Circolo dei Lettori e ha mostrato tutte queste tecniche. E lei inghiotte una lampadina. Sì, non tutte insieme. Comunque, quello che faccio esattamente è prendere una lampadina di vetro chiaro e romperla, e poi prenderne un pezzettino grande come una monetina. Questo pezzo di vetro si mette piatto retto tra i denti, tra i molari, ovviamente non bisogna avere carie, e poi si schiaccia, il vetro essendo sottile si frantuma, e poi lo si mastica a lungo e poi si inghiotte. E non si taglia. Quindi non c'è nessun pericolo, diciamo, basta metterlo all'inizio piatto tra i denti e ovviamente masticarlo un po' a lungo e poi si deve aspetti, alla fine avere in bocca della sabbia. Ecco, infatti stavo dicendo io, come se mangiassimo la sabbia, non è una meraviglia, diciamo. Non è tanto piacevole, però non succede niente. Anche perché il vetro, una scheggia di vetro, taglia se uno la tiene in mano stretta tra due dita e poi taglia qualcosa, no? Come se stesse usando una lametta, ma all'interno del tubo digerente, dove le pareti sono morbide, molli, non c'è questa azione di lesione. Vabbè, adesso a me verrebbe una domanda, ma volevo chiedere però, ma se quei mangiatori di vetro mangiano piccole porzioni di vetro o si mangiano tutta una lampadina tritata? Beh, un po' alla volta, uno può anche mangiarsi la mangia. Io ho sempre sentito citare quelli che mangiano i bicchieri, però devo dire che io non li ho mai visti. Ecco, vedi. No, però lei prima ha detto, ovviamente non bisogna avere carie. Sì, perché certo, ovviamente. Perché se uno ha delle carie potrebbe avere dei guai, poi un pezzettino di vetro. Cioè potrebbe rovinare la superficie. È un aggravante. E però poi dopo si digerisce, insomma. Sì, senza problemi, tu vuoi sapere. Se uno lo mastica abbastanza a lungo, ci potrebbe essere una specie di effetto carta vetrata la mattina dopo, però niente di grave. Niente di grave, Se poi uno deve lavorarci, insomma, se ne fa una ragione. Sì, e beh. Però lo ricordiamo, non provate a mangiare lampadine di Natale, quelle sull'albero. Esatto. Solo quelle grosse di vetro sottile. Ecco. Va bene. Beh, direi che fondamentale sono le spade. Le spade io non ho mai provato a farlo. Beh, c'è tempo, Carlo Schelli. Apro una parentesi, non ingoio le spade, però ho imparato a martellarmi nel naso un chiodo da 15 centimetri. No, se volete ne parliamo dopo. Ne parliamo subito, direi, Carlo Schelli. Lasciamo le spade, cos'è questo? Infila un chiodo nella narice. Sì, il chiodo è un chiodo da carpentiere di acciaio, spesso 4 mm, lungo circa 15, che si mette nella narice, si martella nella testa con un martello e per quanto sia impressionante e schifoso non succede niente perché dietro le narici ci sono le fosse coane, che sono un canale parallelo al palato duro, sopra il palato duro della bocca, che uniscono il naso con il fondo della gola, no? E sbucano dove poi sopra che adesso ve lo pendono, che è perfettamente dritto, ci sta dentro benissimo un chiodo lungo 14 centimetri, si infila dentro, orizzontale, parallelo al palato duro della bocca. E il martello serve un po' per far scena? Sì, oppure anche un cucchiaio, qualunque cosa, insomma. Sì, bisogna stare attenti a non martellare troppo forte, perché poi alla fine sto canale finisce, ovviamente. Certo. Lì c'è l'osso sfenoide, dietro c'è il cervelletto, quindi non picchiate meglio troppo fermarsi forte. A un certo punto. Sì. Addirittura ci sono dei fakiri più esperti di me che riescono a introdurre per esempio un nastrino o addirittura un piccolo serpente vivo in una narice attraverso questo canale. Che farlo girare in fondo e farlo uscire dall'altra parte. No, farlo uscire dall'altra parte. Beh, bisogna essere veramente esperti, però. Però il trucco è sempre lo stesso, cioè nel senso che si usano gli stessi passaggi nasali, esatto. Passaggio nord-ovest. Ecco, invece le spade è diverso. Brevemente, le spade vengono veramente ingoiate perché se si tiene la bocca e la testa verso l'alto, c'è l'esofago dritto. E la parte alta dello stomaco sono allineati e quindi la spada viene veramente introdotta fino sul fondo dello stomaco. Certo. Ovviamente deve essere una spada non troppo appuntita e non tagliente, sui bordi. Io non ho voluto imparare perché ho visto che di mangia spada nel mondo ce ne sono circa un 15-20, non di più, e ogni due anni magari ne muore anche uno. Vabbè, lasci perdere Carlo Schelli, via. Preferiamo di no. La cosa difficile nel mangiare spada è vincere il riflesso del vomito, che è un riflesso istintivo. Quando uno ha qualcosa in gola gli viene... Senti, la prossima volta direi che Carlo Schelli potrebbe venirci a trovare in radio e proviamo a fare il primo spettacolo di fakirismo radiofonico. Va bene, grazie Carlo Schelli, davvero, buon lavoro, Grazie. Arrivederci. Dov'è il sole di notte? Bella domanda. Potrebbe essere arrivata anche da un nostro ascoltatore. Invece no, questa volta. Questo è il titolo di un saggio di Roberto Casati, sottotitolo Lezioni atipiche di astronomia, è uscito per la collana Scienzi di Raffaello Cortina. Roberto Casati è qui con noi. Ciao Roberto. Salve, buonasera. Tu sei un filosofo che lavora nell'ambito delle scienze cognitive, lavori in Francia. E senti, però noi ti diamo del tuo anche perché scrivi regolarmente sul domenicale Il Sole 24 Ore e hai fatto diversi saggi appunto di divulgazione che affrontano, ecco, poi tu hai una passione in particolare anche per l'astronomia. E Dov'è il sole di notte è il tuo ultimo saggio. Senti, abbiamo pensato io e Chiara di suggerire ai nostri ascoltatori di procurarselo in qualche modo prima di Natale. Prima di Natale, perché sulla tavola alla sera delle tante cene che si fanno ci sono tutti gli ingredienti che possono essere utili per spiegare, per rifare, per simulare tutti gli esercizi, gli esperimenti che tu suggerisci sul tuo libro. E il tuo libro parte da un concetto di fondo che dice appunto, per capire quello che accade nei fenomeni come per esempio quelli dell'eclissi, è interessante rovesciare le cose e vedere perché non accade qualcos'altro. Sì, anche perché in astronomia noi ci vediamo sotto gli occhi tutte le notti e tutti i giorni e la cosa interessante è capire perché moltissime persone nel mondo occidentale, che è un mondo molto acculturato e in cui l'astronomia è anche molto presente sui media, alcune concezioni completamente sbagliate del funzionamento di questo piccolo sistema Terra-Luna-Sole continuino a perdurare, a resistere. Il progetto che io ho cercato di mettere a punto è quello di suggerire un modo di vedere i fenomeni astronomici un po' diverso dal solito per permettere la loro comprensione, cioè perché le persone non riescono ad avere un'idea chiara di come funzionano le eclissi o come funzionano le stagioni. Spesso le persone pensano che le stagioni dipendano dalla maggiore o minore distanza della Terra dal Sole, quando in realtà dipendono da un fenomeno completamente diverso che è l'inclinazione dell'asse. Allora, certo. L'idea è quella di prendere un modello molto semplificato di questo sistema Terra-Luna-Sole, che non ha i parametri fisici che effettivamente sono identificati nel mondo reale, e capire cosa succede in questo modello semplificato. Allora, la tavola di Natale va benissimo perché permette di fare la semplificazione principale, cioè quella di sincronizzare l'asse il piano di rivoluzione della Terra intorno al Sole al piano di rivoluzione della Luna intorno alla Terra. Questi due piani sono un po' sfasati, però se li sincronizziamo e facciamo girare la nocciolina della Luna intorno alla pesca della Terra, tenendo lontano il panettone che rappresenta il Sole, vediamo una cosa interessante, cioè che a ogni giro la Terra fa ombra alla Luna e ogni giro la Luna fa ombra alla Terra. Ecco. E da qui infatti la parafrasi che abbiamo utilizzato, che tu hai utilizzato nel tuo libro, noi l'abbiamo utilizzata nei titoli, se potessi avere un'eclissi al mese. Se potessi. No? Ecco, senti, facciamo una simulazione. Allora, potrebbe andare benissimo uno, no, Chiara, di quei cerchi in cartone che stanno sotto le torte. Sì, o no? Un piatto anche. O anche un piatto. Questo qui è il piano della Terra, no? Di rotazione della Terra intorno al Sole. Poi sul bordo, no? Tu dici, Roberto, dobbiamo immaginarci un piattino che è invece la Luna che gira intorno alla Terra. Se questo piattino appoggia, incrocia l'orbita, ma è inclinato com'è in realtà, la situazione è molto diversa da quando invece, ed è qui che tu hai una maga, no? Che ti cambia le situazioni spaziali per appunto far vedere quello che non accade. Se il piattino invece è esattamente sullo stesso, poggia praticamente sul cartone della torta, beh certo, a quel punto ad ogni giro c'è sempre una Luna che sta tra la Terra e il Sole, per esempio. Avremmo una Terra che sta tra la Terra, no? Mentre invece quelle esatto, ogni mese ci sarebbe un'eclisse di Luna e ogni mese ci sarebbe un'eclisse di Sole, quindi in totale due ne avremmo. Due eclissi al mese. Se invece uno si mette, no, la noce sul piattino inclinato, vede che ci vuole una bella combinazione. La buona domanda che uno deve fare in questi casi è proprio questa, cioè perché non c'è un'eclisse al mese? Cioè perché nella nostra esatto è stata una? No? Ma perché non c'è un'eclisse al mese? Cioè in questo caso se noi incliniamo un po' il piattino, vediamo che a volte la nocciolina che rappresenta la Luna sarà un po' più alta o un po' più bassa rispetto alla Terra. Le coincidenze diminuiscono tremendamente. Ecco, però sotto traccia, Roberto, sarei d'accordo, qui poi c'è un bel gioco per spiegare le cose, ma c'è anche la segnalazione di una modalità tipica della ricerca scientifica quando per capire le cose dice supponiamo che vadano in un altro modo. Io mi sono molto ispirato a Keplero in questo, che aveva pubblicato una specie di astronomia immaginaria per gli abitanti della Luna, per spiegare come la Terra, come si possa pensare che la Terra giri veramente su se stessa. Lui diceva: guardate, andate sulla Luna e vedi. E guardate la Terra, e quando voi siete sulla Luna e guardate la Terra la vedete girare su se stessa. È tutto più chiaro, certo. La differenza di punto di vista a volte è sufficiente per cambiare, per generare la conoscenza. In conclusione, velocissimo, addirittura tu suggerisci di prendere il mappamondo che ci è appena stato regalato e di smontarlo. Sì, questa è un'operazione un po' violenta, ma secondo me interessante da fare. Cioè, i mappamondi così come li usiamo dopo che sono stati usati per fare questo modellino Terra-Luna-Sole sulla tavola di Natale, in realtà servono molto di più se li si porta all'aperto. Però bisogna fare una piccola operazione, bisogna toglierli dall'asse, dal loro supporto, e poi inchiodare, mettere una vite sul luogo che corrisponde al luogo in cui abitate, quindi se siete a Roma abitate una vite sul luogo di Roma, poi sospenderli alla vite e cercare il nord, e a quel punto incollarli al suolo in un posto assolato, perché a questo punto il mappamondo vi darà un'immagine in tempo reale di come si dispongono le ombre e le luci sulla Terra in quel preciso momento. Naturalmente non funziona di notte, però di giorno, se voi vedete in questo mappamondo orientato un'ombra che sta toccando in questo momento Los Angeles, beh, in quel momento l'ombra della Terra sarà su Los Angeles, quindi il sole starà sorgendo o tramontando. Bello, bello esperimento da fare, va bene. Allora, il libro di Roberto Casati, Dov'è il sole di notte, edito da Raffaello Cortina, è pieno di questi giochi molto intelligenti da apprezzare. E grazie Roberto Casati e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Una pausa e poi Tasmania, Diavolo e là c'è Chiara. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve l'ho già detto prima della pausa, sentite dove è finita Chiara. Addentriamoci nelle foreste della Tasmania. Quello che sentite è l'urlo terrificante che emette il più grande marsupiale carnivoro del mondo. Vive nelle foreste della Tasmania, un'isola a sud del continente australiano, ed è conosciuto con il nome comune di Diavolo della Tasmania. Perché si narra che i primi colonizzatori, avvertendo questi versi spaventosi provenienti dal cuore dell'isola, pensarono che l'isola fosse abitata proprio dal diavolo. L'aspetto molto feroce, il pelo nero corvino e i denti aguzzi gli conferiscono un'aura sinistra e certamente poco rassicurante. Il diavolo della Tasmania, che in termini scientifici viene chiamato Sarcophilus arisi, è divenuto il più grande marsupiale carnivoro del nostro pianeta, da quando è scomparso il lupo marsupiale intorno al 1936. Ha un morso fortissimo, il più potente tra i carnivori in rapporto alle dimensioni corporee, il 60% pensate più forte di quello del leone. Vincenzo Venuto, naturalista e conduttore televisivo di Life su Rete 4, lo ha incontrato e stasera ci racconterà di quello straordinario evento. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti. Hai avuto la fortuna e la bravura anche di incontrarlo, quindi sentiamo l'emozione di quell'evento. Ho sentito un rumore. Eccolo. Eccolo lì che mangia. Sono molto emozionato. Di fronte a me c'è il più grande carnivoro marsupiale del mondo. Eccolo. Ecco, dici il più grande marsupiale carnivoro del mondo. Raccontaci un po' di questo animale così straordinario. Beh, sì, prima di lui una volta ce n'era un altro, che era il tilacino. È rimasto il diavolo della Tasmania, che poi alla fine non è tanto grande, perché peserà massimo 8 kg. Però è un bel carnivoro, eh. Diciamo anche che si pensava che fosse un predatore, è naturalmente un predatore, però è più un animale saprofago, cioè un animale che mangia carogne essenzialmente. Certo, ogni tanto gli capita anche di mangiare altre cose. Gli piace, insomma, trovare il cibo facile. Sì, molto facile, molto facile. La sua caratteristica è che ha questo morso molto potente. Tu dicevi, non è molto grande di dimensione, assomiglia un po' a un pitbull, se vogliamo immaginarcelo un po' nelle dimensioni. Ha un muso piuttosto pronunciato e ha un morso piuttosto potente. Sì, è, rispetto alle dimensioni è più forte quello di un leone. Ma questo capita un po' a tutti gli animali che sono un po' saprofagi, no? Come le iene, per esempio. Perché? Perché questi animali mangiano anche le ossa, per cui hanno bisogno di un morso molto potente per triturare le ossa. Ecco, la sua particolarità, li abbiamo sentiti prima, sono i versi, questi versi sì, molto profondi, molto terrificanti che lui emette. In quali condizioni? Dunque, loro emettono questi versi quando hanno qualche interazione sociale, cioè oppure quando si ritrovano sulla stessa carogna, però solitamente quando si incontrano, per cui iniziano a urlare, fanno queste urla demoniache che fanno anche un po' ridere, di la verità, che però spaventavano molto i coloni. Comunque lo fanno per, sono interazioni sociali strane, qualche volta violente, qualche volta no. Ecco, però, infatti non hanno sempre una connotazione negativa, possono anche essere, diciamo, utili per l'accoppiamento, per mandare dei segnali anche le femmine. Sì, sì, sono interazioni tra di loro, per cui quando devono comunicarsi qualche cosa lo fanno anche attraverso la voce. E poi è un marsupiale, quindi vabbè, noi abbiamo in mente i canguri, ovviamente lui è un po' diverso, ha la tasca praticamente rivolta in direzione della coda e si mantiene i piccoli appena nascono. Sì, sì, sì, beh, non è solo lui, ci sono anche altri marsupiali che hanno questa caratteristica, come il bombati per esempio. Mm-hmm. Sì, la sacca rivolta all'indietro e niente, si tiene, adesso se non sbaglio lui ha 4 mammelle, adesso non mi ricordo più. Mm-hmm. Questo significa che può tenere dentro il marsupio 4 piccoli. Il problema è che ne nascono di più, per cui là c'è una competizione già quasi a livello embrionale, per cui questi embrioni che nascono devono competere tra di loro per arrivare primi alla tetta, praticamente. E certo, un po' una selezione naturale già dai, esatto, primi giorni di vita. Ma nei primissimi istanti dalla nascita, perché sai, i marsupiali nascono che sono embrioni, poco più che embrioni, sì, insomma, no? Poi salgono nella tasca, si attaccano alla mammella e completano il loro sviluppo all'interno del marsupio. E questi animali qui competono già lì. In quell'occasione tu hai incontrato diversi esemplari, ti è capitato di vedere ad esempio una mamma coi piccoli? No, quello non mi è capitato, però se vuoi ti racconto una cosa che mi è capitata quella notte lì, perché sì, quella notte lì abbiamo messo una carcassa e sono arrivati 2 diavoli diversi da Tasmania a mangiare, mm-hmm, un maschio e poi una femmina se non ricordo male. Ma la cosa che mi ha fatto impazzire dalle risate è che quando abbiamo finito e i diavoli se ne sono andati, sono uscito per recuperare la GoPro che avevamo poggiato per terra, insomma le luci che avevamo posizionato, e si è avvicinato un qual. I qual sono altri carnivori, assomigliano a dei gatti, mm-hmm, sono tutti immacolati, molto belli, e questo non aveva paura. Peccato che le telecamere erano spente, io ero accucciato a togliere, a fare, a lavorare, non mi ero accorto che ce l'avevo attaccato al ginocchio che mi guardava e mi annusava. È stato divertente. E però non hai potuto riprenderlo perché appunto stavi smontando l'attrezzatura. Sì, stavano smontando tutto, per cui non riuscivo neanche a segnalare all'operatore che c'era lì l'animaletto, anche perché se mi fossi mosso troppo questo sarebbe scappato, ma ce l'avevo, giuro, attaccato al ginocchio. Ma questo perché non hanno paura dell'uomo, è così forse anche per i diavoli della Tasmania, nel senso che spesso si avvicinano anche alle abitazioni. E poi questo atteggiamento aggressivo che loro sembra abbiano, in realtà non attaccano l'uomo, non sono pericolosi per l'uomo. Ma assolutamente no, cioè si avvicinano alle case, si avvicinavano. Adesso intanto diciamo che il diavolo della Tasmania è uno degli animali più a rischio in questo momento, dei mammiferi più a rischio, perché c'è un tumore, non so se ne possiamo parlare, c'è un tumore. Assolutamente che colpisce... sì, adesso ne parleremo ampiamente. Per cui non si avvicinano alle case e si avvicinavano perché magari c'erano delle galline, c'era qualcosa da mangiare, però sono animali che pesano 8 kg, anche se mi attaccassero e hanno un morso potentissimo, che mi fa un diavolo da Tasmania? Certo. Per cui non è quello il problema, ecco. E invece il fatto che non sono tanto confidenti, cioè loro sono molto molto schivi, è difficile vederli e ci abbiamo messo molto per riuscire a riprenderli. Il quale invece, non so per quale motivo, quell'individuo lì, che anche lui non è tanto confidente, aveva familiarità. Non so cosa è successo. Era incuriosito da queste strane attrezzature che ti portavi appresso. Aveva tanta fame, per cui si è avvicinato al momento il diavolo se n'è andato, ne ha approfittato e ha detto: il diavolo è meno pericoloso di Vincenzo. Allora si è messo lì. Grazie Vincenzo e davvero buonissimo lavoro. Grazie, grazie a tutti voi. Alla prossima. Il diavolo della Tasmania è divenuto il simbolo del paese. È la mascotte di numerose squadre sportive ed è stato anche il protagonista di un noto cartone animato della Warner Bros., di cui abbiamo appena ascoltato la sigla. Oggi il diavolo della Tasmania è in pericolo di estinzione. Dal 2008 è stato ufficialmente inserito nella lista delle specie a rischio. Se non si interviene, tutti gli esemplari saranno destinati all'estinzione in meno di 30 anni. Il motivo della scomparsa è una nuova malattia, un cancro infettivo che si trasmette di esemplare in esemplare. Sentiamo ora una conferenza TED di Elizabeth Markson, l'oncologa veterinaria che sta studiando questa nuova malattia che porta alla morte il 100% degli individui colpiti. Nel 1996 viene avvistato per la prima volta un esemplare malato. Aveva il muso completamente sfigurato da un tumore. Era il primo caso di una nuova malattia che sarebbe diventata un'epidemia. Il tumore dapprima si mostra sul muso e poi si espande in maniera mostruosa, spaccando addirittura le mascelle. Poi, una volta che vengono intaccati gli organi interni, l'animale è destinato alla morte rapida. Tutte le prove suggerivano che questo tipo di cancro dei diavoli venisse diffuso da un virus. Ma ora sappiamo che questo cancro non si diffonde attraverso un virus. L'agente infettivo è qualcosa che all'inizio sfuggiva agli scienziati. Abbiamo scoperto che il cancro e l'animale che lo ospita sono geneticamente diversi. Questo ci fa capire che il cancro non è nato dalle cellule interne dell'animale, ma arriva dall'esterno. Anzi, esistono casi in cui un esemplare maschio viene colpito da un cancro che geneticamente apparteneva ad un esemplare femmina. Com'è possibile? La scoperta giunse dopo lo studio di centinaia di cancri di diavoli della Tasmania provenienti da tutta l'isola. Abbiamo trovato che tutti questi cancri condividevano il medesimo DNA. Pensate, significa che tutti questi cancri sono in realtà lo stesso cancro, proveniente da un unico individuo. Si sono diffusi nel corpo di quel primo esemplare per poi raggiungere l'intera popolazione dei diavoli. Il pezzo conclusivo del puzzle giunse quando ci ricordammo come si comportano i diavoli della Tasmania quando si incontrano. Tendono a morsicarsi l'un l'altro, spesso anche ferocemente, sul muso. Pensiamo che le cellule del cancro, distaccatesi dal tumore, penetrino nella saliva. Quando un esemplare morde un altro, gli impianta fisicamente cellule cancerogene vive. Così il tumore continua a crescere. Si diffonde nella popolazione e muta in modo da evadere le difese immunitarie. È il solo cancro a noi noto che sta minacciando di estinzione un'intera specie. Se accade ai diavoli della Tasmania, perché non dovrebbe accadere agli altri animali? Esistono dei casi di cancro infettivo nel regno animale? E tra gli esseri umani? Sentiamo che cosa risponde la dottoressa Markson. La risposta è che purtroppo è già accaduto. È noto un cancro dei cani, venereo, che si è manifestato per la prima volta in Kenya, ma ora si è diffuso in tutto il mondo. Ci sono stati casi a New York, in Himalaya e in Australia. Il profilo genetico di questo cancro è estremamente vecchio, potrebbe avere decine di migliaia di anni. Questo significa che potrebbe aver avuto origine dalle cellule di un lupo vissuto a fianco dell'uomo di Neanderthal. è una reliquia vivente di un lontano passato. So we've seen that this can happen in animals. Could cancers be contagious between people? Potrebbero esserci cancri infettivi tra gli esseri umani? Negli anni 50 l'oncologo Chester Southam decise di scoprirlo, inoculando deliberatamente alcune persone volontarie con il cancro di un altro paziente. Molti dei pazienti del dottor Southam non contrassero il cancro dalle cellule iniettate, ma una piccola parte sì. Erano soprattutto persone malate con sistemi immunitari compromessi. Questo ci dice che, questioni etiche a parte, probabilmente è rarissimo che il cancro passi da un essere umano all'altro. Tuttavia, in alcune circostanze, questo può succedere. In conclusione, il cancro è un risultato inevitabile delle capacità delle nostre cellule di dividersi e di adattarsi a vari ambienti. Ma questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare la speranza nella lotta contro il cancro. Anzi, con una maggiore conoscenza dei processi evolutivi, noi potremo sconfiggerlo. Il mio obiettivo, in particolare, è quello di sconfiggere il cancro dei diavoli della Tasmania, affinché non siano la prima specie estinta a causa del cancro. Let's prevent the Tasmanian devil from being the first animal to go extinct from cancer. Eccolo ancora qui, il diavolo della Tasmania. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lascio Chiara in Tasmania con il suo diavolo e vi parlo di connettoma. Vi viene in mente genoma? Qualcosa che abbia a vedere col genoma? In un certo senso sì. Ma Connettoma è il titolo di un bel saggio edito da Codice Edizioni, un saggio denso, Connettoma, la nuova geografia della mente di Sebastian Seung, e ne parlo con Sandro Modeo. Sandro, ciao. Buonasera. Ci diamo del tu perché tu sei un giornalista che scrive spesso di scienza su Corriere della Sera, ha scritto molto sulle scienze, anche su Darwin, e sei un po' un cultore di tutto ciò che è neuroscienze nella cultura contemporanea, e Connettoma ha profondamente a che vedere con questa tematica. Senti, introduci tu in 30 secondi che cos'è questo saggio, ma solo per capire di che cosa si interessa. Connettoma è un termine che ricorda genoma, come dicevi, come accennavi prima, nel senso che come il genoma è la classificazione di tutti i nucleotidi che ci sono all'interno di una cellula, che sono circa 3 miliardi, e quindi è la mappatura genetica di un individuo, il connettoma vuole essere ancora più ambiziosamente la mappatura di tutte le sue connessioni neurali, cioè le connessioni tra i neuroni, connessioni sinaptiche, che sono però una quantità infinitamente superiore, e si parla di milioni di miliardi di connessioni. Se teniamo conto che abbiamo 100 miliardi di neuroni, si parla di miliardi di connessioni, ed è una mappatura molto ambiziosa. Però Sebastian Seung ci dice questa mappatura c'è, le neuroscienze ci dicono c'è, perché evidentemente funziona, è qualcosa di costantemente attivo ed è analogo, ma come dicevi tu, svariati ordini di grandezza più complesso, è del tutto analogo al genoma. Che cosa abbiamo? Mi pare che lui sostenga appunto che nella nostra testa c'è una quantità impressionante di connessioni ed è questa quantità che a un certo momento fa scattare quel comportamento che è qualitativo, che certo rispetto agli altri esseri viventi ci rende assolutamente unici, no? Questo numero impressionante di connessioni a un certo momento tira fuori questo comportamento intelligente. Non c'è dubbio. Lui usa alcune analogie metafore molto suggestive e anche nello stesso tempo precise quando paragona questo impressionante intreccio sinaptico a una foresta. Di per sé la metafora non è nuova, perché da sempre si è detto studiare il singolo neurone è come studiare l'albero, studiare le interazioni e le connessioni è come studiare la foresta. Lui però aggiunge una cosa importante: non è una foresta di conifere nordiche, cioè ordinata, quasi stilizzata, è una foresta tropicale il cervello, con degli intrecci veramente molto molto difficili da avvicinare, e con un tipo di connessioni estremamente elaborate. E ovviamente per riuscire ad arrivare alla decifrazione di funzioni sia più basilari, funzioni motorie, percezioni, sensazioni, sia funzioni molto più complesse come quelle mnemoniche, come il sogno, come interazioni che portano a comportamenti articolati, e bisogna far interagire all'interno di questa mappatura delle sottomappe fino ad arrivare ad una macromappa generale. E qui si subentra una serie di problemi che sono sia di carattere osservativo e sia di carattere, diciamo, legate alla cornice concettuale, cioè al fatto che il cervello cambia a ogni frazione di secondo. Queste interazioni sono incessantemente ridefinite. Ecco, questo è un punto su cui arriviamo subito. Per cercare di dare un'immagine di questa mappa, che cosa si fa? Si ricorre, per esempio, mi pare che ci sia anche nel libro, a quelle classiche fotografie di computer, degli interni di computer particolarmente complessi, nelle quali si vede un grandissimo intreccio di cavi. Ecco, se noi potessimo fotografare la mappa, probabilmente quell'intreccio di cavi diventerebbe ordinato come una bella scacchiera per dama o scacchi, perché è veramente, come dicevi tu, tremendamente disordinato. Non so se sei d'accordo, ma una cosa che ci rende bene probabilmente la differenza, e quindi cominciamo a vedere in che modo il funzionamento è diverso da quello dei computer, perché è chiaro che, no, Sandro, pensiamo sempre al fatto che con i computer potremmo ricostruire il connettome. Ecco, ma quello che lui fa, lo fa anche nel libro, dice attenzione, perché la cosa impressionante è che, allora, se io ho fame e vedo qui davanti a me un bel po' di pane con del salame, mi viene subito l'acquolina in bocca e mangio. La cosa singolare è che se io non ho il salame e il pane, ma me lo penso, mi viene ugualmente l'acquolina in bocca. Quindi il cervello è qualcosa che si crea anche gli stimoli e reagisce ad essi. Ah, su questo non c'è dubbio. Il cervello è continuamente in interazione con l'ambiente. C'è una dialettica, una serie di feedback, cioè di retroazioni continue tra il cervello e l'ambiente. Ovviamente questo nel computer non c'è, nel senso che il computer dipende dalla programmazione che viene fatta da noi, per cui il computer è sicuramente superiore al cervello umano per quanto riguarda operazioni algebriche di calcolo, ma è radicalmente diverso nel rapporto quantità-qualità, perché appunto non ha questa interazione ambientale e non c'è questa incessante ridefinizione delle sue strutture. Noi abbiamo all'interno del cervello un sistema che funziona in parallelo, cioè mentre il computer è tutto su struttura binaria 0 e 1, noi abbiamo questa intelligenza parallela in cui tutto, non dico tutto in rapporto con tutto, ma molto in rapporto con molto, per cui cambia radicalmente l'aspetto qualitativo delle interazioni rispetto a quello quantitativo che c'è nel computer. Però va detto che il computer potrebbe esserci molto utile nella decifrazione del connettoma, come dice Seung, se riuscissimo un giorno a fare in modo che i computer riescano a discriminare gli oggetti, cosa che adesso ancora non riescono a fare, vediamo i robot che hanno una discriminazione molto lenta, perché lui dice potrebbe essere utile quando noi mettiamo tutte le varie mappe dei connettomi regionali, per farli interagire tra loro avremo bisogno di una classificazione automatizzata in cui il computer potrebbe essere molto utile sulla macromappa per arrivare al connettoma, perché l'intelligenza umana con il calcolo individuale, con il calcolo umano, ci metterebbe molto molto di più, addirittura decenni. Ma quando tu dici che il connettoma, quindi il nostro computer che abbiamo in testa, è in continua interazione con l'ambiente, la cosa sorprendente è che questa interazione è con l'ambiente che abbiamo intorno e con l'ambiente e l'immagine e il ricordo dell'ambiente che abbiamo in testa. Lui fa quell'esempio di camminate una mattina per un parco e improvvisamente vi viene in mente che la stessa cosa avvenne un giorno molto lontano in cui con la vostra fidanzata o fidanzato vi siete dati proprio il primo bacio, magari in quel parco lì. A quel momento partono una serie di stimoli che si muovono nel cervello, che sono sia quelli del parco reale che quelli del parco di 20 anni prima, e questo è veramente un altro che, come dire, sforamento e allontanamento dal parallelismo, sono proprio un tramezzino di sensazioni in parallelo. Assolutamente. Hai descritto in maniera sintetica quella che è un altro intreccio molto importante, è quello tra rappresentazione del mondo esterno e rappresentazione non solo rappresentazione interna del mondo esterno che fa il cervello in continuazione, ma rappresentazione interna di ricorsività interna, cioè il pensiero, cioè il fatto che ci possa essere, che contemporaneamente rappresenti sempre il mondo esterno nella sua oggettività, anche se naturalmente interpretandolo, e all'interno produca dinamiche ricorsive, cioè parlando a se stesso di se stesso, che è appunto il pensiero nella sua accezione anche più astratta, rende incredibilmente complicato il tutto, per cui anche questo è una incessante redefinizione nella dialettica col mondo esterno e nella dialettica introspettiva, per cui quando tu citavi quell'esempio molto felice, anche soltanto una memoria associativa o una sinestesia, cioè per esempio dei sensi che tra loro esprimono delle percezioni diverse o intrecciate, determina ulteriormente quanto il connettoma, cioè la mappatura di tutte le interazioni sinaptiche, sia veramente sofisticata e difficile. Sì, e nello stesso tempo il tuo esempio è molto felice nel ricordare come il fatto che la ridefinizione sia incessante, di fatto un connettoma in senso astratto viene un po' irrigidito, è come un irrigidimento di un pensiero che è sempre dinamico. Brevemente, in conclusione, connettoma, genoma l'abbiamo sequenziato, ma riusciremo ad avere una mappa del connettoma? La tua opinione qual è? Intanto ricordiamo un po' didatticamente, che mi sembra utile, che il connettoma è comunque in larga parte l'espressione del genoma, perché certo, sono i geni che arrivano a esprimere le stesse dinamiche sinaptiche di cui ci occupiamo nel momento in cui diventano connettoma. Quindi a monte c'è sempre l'espressione genica che poi in dialettica con l'ambiente crea quelle che sono le dinamiche delle sinapsi. Pensiamo solo che tra i 2-4 mesi esprimiamo 500.000 sinapsi al secondo, che poi vengono scremate e per arrivare ad una, diciamo, sedimentazione momentanea, ad una specie di scrematura momentanea di quello che sarà il cervello adolescente e poi adulto. Ci si può arrivare, bisogna vedere quanto progrediscono delle metodi di osservazione come i cosiddetti ultramicrotomi, che sono quelle affettatrici che creano proprio delle fettine a 50 nanometri, cioè un millesimo di un capello, che ti fanno vedere i sottoconnettomi, i connettomi, diciamo, che porteranno poi alla classificazione del connettoma. Quindi da un lato le tecniche e dall'altro naturalmente anche le quanto computer, come computer quantistici, quindi possono aiutarci poi alla messa a punto del connettoma finale. Impresa. Si parla di decenni. Decenni, impresa non facile. Allora, connettoma, la nuova geografia della mente. Sebastian Seung è l'autore, edito da Codice in collaborazione anche con Le Scienze. Sandro Modeo, grazie. Grazie a voi. Solo una manciata di secondi per dirvi che ci sentiamo qui fra 7 giorni e vi faccio dei quasi auguri di Natale.